le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lavoro, 69.000 occupati in più e terzo mese di crescita, 325.000 in un anno. Di nuovo in calo la disoccupazione. Gli operati profughi dagli scogli a Ventimiglia, rimossa la tendopoli, restano in presidio alcuni attivisti. Arrestati per corruzione i vertici dell'ANAS in Toscana, 70 perquisizioni, le tangenti erano del 5% sul valore degli appalti. Poche ore dal ritorno del Papa dagli Stati Uniti, esecuzione in Georgia, la prima da 70 anni, è stata giustiziata una donna. 10 regioni depositano il referendum contro il decreto sblocca Italia per le trivellazioni. Monsignor Paglia dice il Papa è furibondo con Marino, per il sindaco di Roma nuovo colpo con lo scherzo telefonico della zanzara. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo in diretta oggi dal Salone Nautico di Genova, dove che si inaugura oggi e dal quale trasmetteremo molte trasmissioni nell'arco di questa settimana. Più avanti parleremo proprio di questa inaugurazione, parleremo di quali sono i segnali che arrivano nel settore anche all'interno di Effetto Giorno. Ma a proposito di segnali e di segnali per l'economia, stamattina ci sono i dati sulla disoccupazione, gli occupati fanno segnare un aumento netto, cala la disoccupazione, cresce lievemente quella giovanile. Il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dati confortanti quelli diffusi questa mattina dall'Istat, sia per l'entità dei numeri ma soprattutto per il valore simbolico che a volte questi hanno. È il caso del tasso di disoccupazione che scende sotto la soglia del 12%, erano 2 anni e mezzo che questo non accadeva, ossia dal febbraio 2013. Per l'esattezza 11,9% ad agosto, meno 0,1% su luglio e meno 0,7% rispetto allo stesso mese del 2014. Nello specifico si tratta del terzo mese consecutivo con il segno meno per la disoccupazione. In termini numerici, ad agosto meno 11.000 disoccupati, meno 162.000 persone in cerca di lavoro nei 12 mesi, pari al 5%. Altro dato interessante è quello relativo agli occupati, 69.000 in più rispetto a luglio e 325.000 in più rispetto al 2014. Capitolo a parte la disoccupazione giovanile, il relativo tasso torna a crescere mese su mese al 47%, ma risulta in calo di 2,3 punti sull'anno. Il Jobs Act funziona, l'Italia riparte, commenta con soddisfazione il Presidente del Consiglio Renzi. Bene la riforma del lavoro, fa capire il Presidente di Confindustria Squinzi, ma avverte è necessario fare di più se ci sarà una ripresa effervescente, potrà venire solo dall'impresa. In chiusura, Simone, le stime di Standard & Poor's sulla crescita dell'economia italiana, di riflesso alla ripresa dei consumi, l'agenzia prevede ora un aumento del PIL dello 0,7 nel 2015 e dell'1,2 nel 2016 contro le proiezioni di giugno di più 0,5% e più 1%. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti sui dati dei quali torneremo a parlare più avanti con qualcuno dell'Istat che ci dia qualche dettaglio in più. Siamo alla situazione dei profughi, questa mattina sgombero a Ventimiglia di quelli che si trovavano sugli scogli da mesi. Gli attivisti nel frattempo sono tornati là, il punto. 70 migranti insieme ad attivisti No Border sono tornati sugli scogli a Ventimiglia. Da 100 giorni vivevano nel presidio autogestito della Pineta Balzi Rossi, che hanno dovuto abbandonare questa mattina. Polizia e carabinieri hanno sgombrato, come racconta il sindaco Enrico Ioculano. Adesso è in fase di bonifica dei rifiuti, gli operai del comune eccetera stanno pulendo quello che è l'accampamento. Diciamo, i componenti di questo presidio sono sugli scogli. Deciderà la questura dove dovranno andare. 200 agenti e 12 camionette circondano ora la zona della scogliera dove gli attivisti e i profughi si sono rifugiati. Il vescovo di Ventimiglia, Antonio Suetta, è sul posto per parlare con gli attivisti. Sentiamo dal presidio Alfredo, uno dei No Border. Sì, anche è passato il vescovo che sta attuando un'opera di mediazione, vogliono andarsene con le proprie gambe. We are not going back, non torneremo indietro, gridano dal presidio. Lasceranno la zona, infatti, solo se i migranti non verranno registrati. Per la regione questo sgombro è il primo passo verso la soluzione. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Beh, meglio tardi che mai. Spero che adesso sulle zone di confine, come in tutto il paese, si cambi passo sulla gestione della politica dell'immigrazione che finora francamente ha portato dei risultati molto deludenti. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prosegue il viaggio di Radio 24 ai confini dell'Europa con una serie di servizi, dirette e reportage in collaborazione con Euronet Plus, una rete di radio europee. Siamo a Catania, dove questa mattina tra l'altro c'è stato uno sbarco consistente. Siamo con Sergio Nava, nostro inviato in Sicilia. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, mi trovo in questo momento ancora al porto di Catania, dove alle 10 di questa mattina è approdata una nave maltese, la P61, con 230 immigrati a bordo. Sono per lo più immigrati dell'Africa subsahariana e dell'Africa occidentale, quindi Nigeria, Gambia, Ghana. Sono ancora tra l'altro in questi minuti gli ultimi in fila per il primo briefing, la prima identificazione e registrazione. Il tutto si è svolto in modo assolutamente ordinato, purtroppo solo un diluvio praticamente ha colto gli immigrati quando ancora stavano a bordo della nave. È anche importante dire che la Sicilia continua a essere una terra di sbarchi in questi giorni. Solo ieri in tutta la Sicilia sono arrivati 1000 migranti, nel weekend 6000, mi è stato detto proprio questa mattina, e quindi e anche oggi, oltre allo sbarco di Catania con 230 migranti, che tra l'altro sono già stati ripartiti e partiranno per i centri di accoglienza di Campania, Lombardia, Veneto e Piemonte tra gli altri, oltre a questi 230 migranti ne arriveranno altri questo pomeriggio nel porto di Augusta, quindi continua in questi giorni, nonostante ormai stiamo già entrando nell'autunno, l'ondata di sbarchi. È anche interessante poi raccontare invece quello che sta avvenendo nelle domande di asilo. Qui a Catania abbiamo incontrato il portavoce di EASO è l'agenzia europea per l'asilo che ha sede a Malta, e il portavoce ci ha raccontato che c'è stato un forte incremento nelle domande di asilo in Europa nel corso già dei primi 8 mesi dell'anno. Sentiamo cosa ci ha detto allora Jean-Pierre Schembri, portavoce di EASO. Quest'anno abbiamo già un record per le domande d'asilo, in quest'anno c'erano 720.000 domande d'asilo nell'Unione Europea. Il 2014, l'altro anno, c'erano 660.000 applicazioni da gennaio fino a dicembre. Adesso siamo soltanto in settembre e di già abbiamo più dell'anno scorso. Ecco, questa è la situazione. Non so se hai domande da studio, Simone. No, non ci sono domande. Intanto ti ringrazio, Sergio, e ovviamente buon lavoro. Se ci saranno aggiornamenti, naturalmente ci sentiremo nei prossimi giorni. Passiamo a parlare delle regioni italiane. Per la prima volta 10 unite contro le trivellazioni in mare. Capofila la Basilicata, ma sono 10 in tutto le regioni che hanno depositato in Cassazione 6 quesiti referendari contro le trivellazioni entro le 12 miglia e sul territorio. Ci sono anche le Marche, la Puglia, la Sardegna, l'Abruzzo, il Veneto, la Calabria, la Liguria, la Campania e il Molise. I 6 quesiti chiedono l'abrogazione di un articolo dello Sblocca Italia e 5 articoli del Decreto Sviluppo. Su 5 articoli, inoltre, è attesa anche la decisione della Consulta, che si pronuncerà da gennaio ad aprile. Chiediamo che non ci siano trivellazioni entro le 12 miglia e che siano ripristinati i poteri delle regioni e degli enti locali, ha chiarito il presidente della Basilicata, Pino La Corazza, mettendo i cittadini al riparo, ha aggiunto, dalla limitazione del loro diritto di proprietà. Il governatore ha fatto presente che anche la Sicilia e la Lombardia, inoltre, hanno mostrato apprezzamento per l'iniziativa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo andremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno. Avremo ospite il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Vi ricordo che siamo qua in diretta dal Salone Nautico oggi per chiedergli anche, a cercare di capire come mai un presidente di regione di Forza Italia si opponga appunto a questo provvedimento. A proposito di politica, si parte con la votazione degli emendamenti, ossia delle proposte di modifica alla riforma costituzionale. Dopo lo stop a quelli della Lega arrivato ieri da Grasso, ne restano comunque da esaminare poco meno di 400.000. L'appuntamento è per il pomeriggio, l'inizio è previsto alle 15, bastano 20 senatori a chiedere voto segreto, questo potrebbe portare a problemi per la maggioranza. Votazione finale prevista per il 13 di ottobre, nel pomeriggio naturalmente vi aggiorneremo. Ci occupiamo di corruzione adesso perché c'è un'inchiesta importante che riguarda i vertici dell'ANAS in Toscana. Raffaella Calandra. Il prezzo era praticamente fisso, il 5% su ogni lavoro, e la percentuale si ripeteva su ogni appalto della rete stradale toscana. È un collaudato sistema di corruzione, per dirla con le parole degli inquirenti, quello ricostruito dalla Procura di Firenze, che ha portato all'arresto di 3 vertici regionali dell'ANAS e ai domiciliari un imprenditore, Francesco Mele, che ha contribuito alla ricostruzione del giro di mazzette. È lui stesso a raccontare ai PM di quanto fosse di casa negli uffici del gestore della rete stradale, tanto da arrivare a predisporre personalmente il bando e tutta la documentazione necessaria per aggiudicarsi le gare. E tutto era più semplice, i guadagni più forti in caso di calamità naturale. Alluvioni che portano a deliberare in somma urgenza, specificano gli investigatori, opere per 200.000 euro sulla strada Tosco-Romagnola o ancora lavori per più di 3 milioni in provincia di Prato o per 500.000 euro a Massa Carrara. Lo schema si ripeteva uguale, sempre il pacchetto completo e sempre allo stesso prezzo, il 5% su ogni intervento sulla rete stradale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A pochi giorni dalla visita del Papa negli Stati Uniti, dell'appello del pontefice contro la pena di morte davanti al Congresso, la Georgia ha giustiziato una persona. È morta per iniezione letale Kelly Gissandener, 47enne condannata come mandante dell'omicidio del marito avvenuto nel 1997. L'esecutore materiale fu infatti l'amante di lei, che sta scontando l'ergastolo. E proprio su questo punto hanno insistito fino all'ultimo i suoi legali, sperando di ottenere che la pena di morte fosse commutata in carcere a vita. Ma a nulla sono valsi gli ultimi appelli in sede locale e alla Corte Suprema. Kelly è stata la prima donna condannata a morte in Georgia negli ultimi 70 anni. Pochissime del resto sono le donne giustiziate negli Stati Uniti, 15 in tutto da quando nel 1976 la Corte Suprema ha ripristinato la pena di morte contro 1.400 uomini giustiziati. Solo pochi giorni fa il pontefice aveva lanciato il suo appello al Congresso degli Stati Uniti per l'abolizione della pena di morte e proprio ieri il premier italiano Renzi alle Nazioni Unite aveva ribadito l'impegno italiano per una moratoria internazionale. Per giovedì però è intanto in calendario un'altra esecuzione, in Virginia, quella di Alfredo Prieto, 49enne, pluriomicida, affetto da accertata disabilità mentale. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E a proposito della visita del Papa negli Stati Uniti, c'è un altro fronte. Dopo le polemiche sul viaggio di Ignazio Marino a Filadelfia, le dichiarazioni del Papa che ha detto di non averlo invitato, sul sindaco di Roma interviene Monsignor Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, l'uomo col quale Marino aveva detto di aver parlato proprio per questa visita. Lo fa Monsignor Paglia a causa di uno scherzo telefonico della Zanzara parlando con un finto Matteo Renzi. Sentiamo. Vorrei capire come sono andate davvero le cose. Dunque, le cose secondo me sono andate che lui si è brigato per sfruttare questa situazione e per questo fa imbestialire il numero uno. Capisco, quindi se lo dico in toscano, si è imbucato. È certo che si è imbucato. Cioè lui, poi io non so che cosa ci hanno detto, lui è il sindaco Natto, era un bravo uomo, una brava persona. Però nessuno l'ha invitato cioè ufficialmente da parte nostra, assolutamente. Io con lui parlai una volta, ma così insomma. Non, il Papa era furibondo. Così dunque Monsignor Paglia, altra benzina sul fuoco sulla figura di Ignazio Marino, vedremo come andrà a finire. Parliamo adesso invece dei funerali di Ingrao. Alla cerimonia l'ha seguita Nazareno Orlandi. Nazareno, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Ha servito la politica invece di servirsene. Queste le parole di Don Ciotti, il fondatore di Libera, ed è stato proprio questo uno dei passaggi più forti dell'ultimo saluto a Pietro Ingrao, storico dirigente del Partito Comunista Italiano, presidente della Camera tra il 76 e il 79, morto domenica, come sapete, a 100 anni. Da una parte, proprio di fronte a Montecitorio, il palco delle autorità con Mattarella, Napolitano e Renzi, dall'altra parte della piazza centinaia di militanti della sinistra più radicale, di compagni di strada, quelli che in Ingrao vedevano uno degli ultimi baluardi. Lo hanno accolto con uno striscione che recitava «Ciao compagno Pietro». Hanno intonato bandiera rossa e bella ciao, e ce n'erano tante, davvero tante, di bandiere rosse, di pugni chiusi, di partigiani, alcuni anche in lacrime, molti anche i giovani in piazza. Tra gli interventi più commoventi quello del regista Ettore Scola, sentiamolo. aiutato tanti, tanti giovani a crescere con le sue idee e con la sua passione. Siamo allegri per questa bella giornata di festa, è la festa di Pietro. E c'erano anche i parenti di Ingrao, le figlie, i nipoti. Sentiamo il ricordo della figlia Renata. Certo, un papà speciale che veniva fermato per strada, che vedevamo in TV e sui giornali, impegnato nelle sue battaglie, nelle sue convinzioni. Il suo impegno è vissuto sempre nella passione per le vite degli altri. Dopo la cerimonia istituzionale, Simone, chiudo nel pomeriggio alle 15 altre esequie all'Enola, in provincia di Latina, il paese natale di Ingrao. Da piazza Montecitorio è tutto. E grazie Nazareno Orlandi. Allora, si torna a discutere del ponte sullo stretto, forse sui giornali l'avrete visto, la maggioranza ha dato il via libera ad una mozione in merito che impegna il governo a valutare, ma sentiamo come la leggono dalla Sicilia e dalla Calabria. C'è chi lo ha fatto notare subito, la Sicilia dopo il crollo del viadotto Imera sulla A19 è spaccata in due e c'è chi pensa a riproporre il ponte sullo stretto di Messina per il collegamento stabile con l'Italia. Sui social network soprattutto i commenti non sono stati teneri, nonostante il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, partecipando a Palermo alla festa dell'unità del mezzogiorno, abbia precisato che il ponte sullo stretto di Messina per il momento non è tra le priorità del governo nazionale, anche perché su altri fronti c'è chi si è affrettato a sottolineare le vere priorità della Sicilia, che vanno oltre il ripristino della viabilità sull'autostrada Palermo-Catania. A Palermo i sindacati hanno consegnato a Del Rio un elenco di opere infrastrutturali finanziate per 124 milioni, ma ancora ferme, e c'è chi ricorda che in Sicilia un quarto dei 20.000 km di asfalto è inaccessibile e che semmai su quelle strade che spesso collegano piccoli comuni dell'entroterra con i grandi centri bisognerebbe intervenire, anche se come sempre quando si parla di ponte sullo stretto tornano a confrontarsi due partiti, da una parte chi lo ritiene un'opera sostanzialmente inutile e dall'altra che invece giudica l'opera una grande scommessa per il futuro della Sicilia, capace di portare ricchezza e sviluppo. Il dibattito resta aperto, le strade invece ancora impraticabili. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Un sogno o un incubo, dipende dai punti di vista, che si riaffaccia ad andamento carsico e che ormai non accende più la fantasia dei calabresi come poteva fare una volta. Se il governo Renzi riapre alla realizzazione del ponte sullo stretto, ad esultare in fondo allo stivale è solo Dorina Bianchi, deputato di NCD. E lo fa a giusto titolo, visto che era la prima firmataria della mozione che ha resuscitato un progetto ormai dato per morto e sepolto. Per la parlamentare calabrese la realizzazione del ponte nel sistema alta velocità è strategica. Il declassamento dell'ex corridoio 1, spiega, significherebbe decidere il declino dell'intero mezzogiorno. Il Movimento 5 Stelle boccia il progetto e semina discordia nella maggioranza. Il governo aveva annunciato che l'infrastruttura non rientrava in agenda, hanno commentato i deputati Parentela, di Eni e Nesci. Poi si è calato la maschera cedendo ai ricatti di Alfano. Lapidaria la CGIL, contraria all'opera da sempre. Per il sindacato il governo risponde a grandi interessi lobbistici e l'idea di farne una infrastruttura ferroviaria è offensiva per l'intelligenza dei meridionali. Insomma, si dovesse fare il referendum proposto da Salvini, l'esito a queste latitudini non sarebbe scontato. Francesco Graziadio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, in diretta dal Salone Nautico di Genova oggi, del quale ci occuperemo tra poco. Le notizie principali: sul lavoro ci sono 69.000 occupati in più e il terzo trimestre di crescita, 325.000 in un anno. Sono stati sgomberati i profughi dagli scogli a Ventimiglia, è stata rimossa la tendopoli, alcuni attivisti restano in presidio. Sono stati arrestati per corruzione i vertici dell'ANAS in Toscana, 70 perquisizioni, le tangenti erano del 5% sul valore degli appalti. Poche ore dal ritorno del Papa negli Stati Uniti, esecuzione in Georgia, la prima da 70 anni, giustiziata una donna. 10 regioni hanno depositato il referendum contro il decreto Sblocca Italia per le trivellazioni. Saluto Angela Del Vecchio, che è ordinario di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno professoressa Del Vecchio e bentornata ai nostri microfoni. Ce l'abbiamo? Abbiamo la professoressa Del Vecchio? Ci sente? Sì, ci sono. Buongiorno, buongiorno professoressa Del Vecchio, Angela Del Vecchio, lo ripeto, ordinario di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma. Ieri il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel suo intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite ha sostanzialmente reclamato, quantomeno richiesto nuovamente un posto per l'Italia come membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Quello che vorrei capire da lei è quante speranze l'Italia ha di ottenere questo risultato al quale aspira non da oggi, a dire il vero. Mi permetta di dire membro non permanente del Consiglio di Sicurezza. Abbia pazienza, mi è sfuggito un non, prego. Ma è importante, per troppo importante. E noi, come Stato, con una certa, a intervalli abbastanza regolari, chiediamo il seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza e in genere poi dopo una lunga procedura riusciamo anche ad ottenerlo. Quindi il passo che ha fatto Renzi è solo il primo passo, cioè pone la candidatura dell'Italia. E questo è un passo importante, ma a questo dovranno seguire poi tutti gli altri passaggi procedurali per i quali ci vorrà un po' di tempo, insomma. Che tempi ci sono? Solitamente ritengo che sia per la prossima sessione, quindi per l'anno prossimo, in genere, perché le candidature sono fatte a seconda delle aree geografiche. Nel Consiglio di Sicurezza devono essere presenti tutte le aree geografiche, quindi noi ci candidiamo come membro non permanente per l'area geografica Europa. Ecco, quindi dobbiamo competere con degli altri stati europei che contemporaneamente stanno presentando eventualmente le loro candidature. Sì, e ci sono, come dire, concorrenti temibili da questo punto di vista? E io ancora non lo so, perché le stanno ancora proponendo adesso le candidature, no? Nella sessione attualmente in corso parlano i vari capi di Stato e di Governo e propongono le candidature, quindi dobbiamo chiudere questa fase per sapere chi abbiamo. Le vorrei porre un'altra domanda, professoressa, che riguarda invece più in generale il discorso di Renzi ieri. Lo ricordiamo, ieri all'Assemblea dell'ONU si parlava della lotta al terrorismo. Il Presidente del Consiglio ha detto siamo pronti a un ruolo guida in Libia. Non è la prima volta che lo dice lui, non è la prima volta, a dire la verità, che lo dice l'Italia. Pensa che questo ruolo guida sia possibile assumerlo oppure no? Perché qua insomma è stato espresso molto scetticismo. Ma dipende da quale punto di vista ci poniamo per vedere se è possibile o no. Io credo che il Presidente Renzi l'abbia fatto per dire che l'Italia ha dei forti interessi in Libia, quindi l'abbia fatto da un punto di vista politico. Se poi è operativo, ecco, questa è un'altra risposta alla quale credo che sia difficile rispondere positivamente, perché è un carico talmente pesante essere in prima linea in una forza di pace in quella zona così difficile, complessa, frammentata, che operativamente lascia perplessi. Io credo che lui lo abbia detto per affermare che l'Italia ha un forte, forse prevalente interesse rispetto agli altri stati in Libia, per il passato coloniale, per gli interessi commerciali tuttora molto forti esistenti nella zona. E ovviamente per la crisi migratoria. La ringrazio, Angela Del Vecchio, ordinario di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma, e siamo a fare il punto sul Salone Nautico dal quale vi trasmettiamo oggi in diretta. C'è in studio con noi il nostro Andrea Ferro. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno anche da parte mia. Sulla Fiera di Genova splende il sole e sul Salone Nautico soffiano brezze di ripresa a confermare un'inversione di tendenza dopo anni difficili. Lo dicono i numeri, tutti con il segno più. Lo fa capire l'atmosfera che si respira tra la darsena e gli spazi a terra, dove è in vetrina una delle più rinomate eccellenze del Made in Italy. Dicevamo dei numeri: 760 espositori, 1000 imbarcazioni, il 20% in più rispetto al 2014, quelle ormeggiate ai moli. In crescita anche la dimensione media delle imbarcazioni. Il Salone della Ripresa vuole ribadire anche il senso originario della manifestazione, cioè un'occasione per vivere e per conoscere il mare. Ricco il programma degli eventi collaterali, con 80 convegni e workshop, a partire da quello che si è svolto stamane dal titolo Le filiere produttive al servizio del Paese, con la partecipazione del Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Per fare il punto sull'edizione numero 55 del Salone Nautico e sulle prospettive incoraggianti dell'intero comparto, abbiamo sentito Marina Stella, direttore generale di Ucina. Già in questi giorni, quando abbiamo incontrato gli espositori, abbiamo visto in loro una volontà di essere presenti, di investire di più nella manifestazione e un atteggiamento più positivo. I dati del nostro ufficio studi ce lo hanno confermato proprio ieri. I nuovi indicatori ci portano una variazione del fatturato 2014-2015 del più 10%, suddiviso con una componente cantieristica che si mantiene sul 10%, una componente legata alla componentistica del 9% e un 15% della componente motori. Questo è un dato molto importante perché solitamente i motori anticipano quelle che poi sono i trend della cantieristica diretta e quindi questo ci fa preannunciare dei segnali ancora più concreti nei prossimi mesi. Un altro dato interessante è quello della ripresa della domanda interna, purtroppo carente negli ultimi anni, che ci indica un più 12%, ed era un dato che non avevamo dal 2008, un dato in crescita quindi importante come segnale indicatore di mercato, e lo vediamo anche all'interno della manifestazione. La fascia di imbarcazioni a motore che soffriva di più era quella tra i 12 e i 18 metri ed è la fascia che è tornata al salone, che è la fascia che in effetti poi era quella che trainava la domanda interna. Quindi tutti indicatori positivi che si sono riflessi anche nella partecipazione al Salone Nautico. E grazie ad Andrea Ferro per questi aggiornamenti e per questa intervista. Torneremo a parlare del Salone Nautico oggi pomeriggio in Focus Economia. Avremo anche la presidente di Ucina, dovrebbe raggiungerci anche il ministro delle Infrastrutture e i Trasporti Graziano Del Rio. Quindi più avanti oggi in Focus Economia ne parleremo. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per l'aggiornamento sui mercati. E poi nella seconda parte della trasmissione toccheremo i temi di Volkswagen e parleremo con i concessionari per capire qual è la loro posizione. Sono finalmente arrivati ad esprimerla dopo qualche giorno di silenzio, e poi col presidente della regione Liguria Giovanni Toti per parlare soprattutto di questo referendum promosso da 10 regioni contro le trivellazioni. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta dal Salone Nautico di Genova. Le notizie principali: ci sono 69.000 occupati in più in agosto, è terzo mese di crescita, 325.000 in un anno, e di nuovo in calo la disoccupazione, anche se aumenta leggermente quella dei giovani. Sono stati sgomberati i profughi dagli scogli a Ventimiglia, rimossa la tendopoli, restano in presidio alcuni attivisti tra qualche tensione. Arrestati per corruzione i vertici dell'ANAS in Toscana, 70 perquisizioni, le tangenti erano del 5% sul valore degli appalti. 10 regioni hanno depositato il referendum contro il decreto Sblocca Italia per le trivellazioni. Alla borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Sempre in diretta qua dal Salone Nautico di Genova ci ha raggiunto nei nostri studi Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, il primo punto che vorremmo affrontare con lei è questo ricorso presentato da una serie di regioni, tra cui la sua, contro quelle norme che sono contenute nel decreto Sblocca Italia, che consentono l'esplorazione per eventuali trivellazioni per idrocarburi. Vorrei capire, e lo chiedo soprattutto a lei che è di Forza Italia, di un partito di centrodestra, come mai questa scelta, soprattutto da parte della Liguria? Guardi, è stata una mozione approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale, con l'astensione di alcuni gruppi ma col voto favorevole di quasi tutti i gruppi. Beh, c'è una preoccupazione legata al fatto che io non credo, come evidentemente non credono i cittadini italiani, molte firme sono state raccolte, che esistano giacimenti così importanti di petrolio davanti alle nostre coste, mentre il turismo, la bellezza del nostro paese, è un asset privilegiato di sviluppo economico che, soprattutto per una regione come Liguria deve essere assolutamente preservato con grande attenzione, perché non vuol dire solamente ambiente, pulizia e benessere, vuol dire anche ricchezza, posti di lavoro e possibilità di sviluppo. Quindi secondo me era giusto una riflessione su quel campo. Non vi sentite in questo modo di entrare in quella sorta di fronte del no che tante volte quando eravate al governo avete criticato? No, sindrome NIMBY, diciamo, not in my backyard. In questo caso secondo me per la Liguria vale. La Liguria è una regione che di turismo deve fare business, che può essere competitiva con le grandi coste europee che ci hanno sottratto moltissimi turisti, moltissime presenze, che ci ha sottratto ricchezza. Quindi in questo caso io credo che sia perseguire un modello di sviluppo, non impedire qualche cosa. Nel caso questo ricorso non andasse in porto, avete già in mente un piano B, diciamo così? No, francamente, siamo all'inizio di un percorso. Lei al convegno di apertura siano piuttosto positivi quest'anno? I segnali sono molto positivi, soprattutto per l'export. La nautica è un settore a cui la politica ha guardato in questi ultimi anni con occhio moralista o moralisteggiante, vessandola di controlli con una serie di leggi sbagliate che ha fatto fuggire oltre 30.000 imbarcazioni dal nostro paese. Occorre invertire completamente la tendenza. Questa è stata la mia presenza e la mia testimonianza su quel palco, perché la nautica non significa solamente delle belle barche o una vacanza agiata per chi può permetterselo, significa investimenti in tecnologia, significa investimenti in design, significa investimenti in ricerca e sviluppo, significa aiutare uno di quei settori che stanno facendo da traino a quella piccola ripresa che il nostro paese vive, soprattutto grazie all'export. Quindi io credo che la politica debba mettere più attenzione in modo diverso sul settore della nautica, che va assolutamente aiutato. Grazie a Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, per essere stato con noi. Mi dicono tra l'altro nel frattempo, nel corso della nostra intervista, è saltato qualcosa, c'è stato qualche problema tecnico, siamo in diretta al Salone Nautico di Genova, può darsi che quando siamo in esterna qualcosa succeda. La vicenda Volkswagen non ce la siamo dimenticata, figuriamoci, ci sono le dichiarazioni di poco fa del Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che dice alla fine Volkswagen non sarà più quello che era, e questo, come dire, ce n'era accorti tutti. Saluto Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, che è l'associazione che raccoglie i concessionari in Italia. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, l'abbiamo inseguita per un paio di giorni, avete tenuto un po' di silenzio in queste ore, alla fine avete deciso di parlare. Io quello che mi interessa capire al momento è qual è la situazione dei concessionari Volkswagen in questo momento, perché immagino che sia una fase di discreta sofferenza. Tra l'altro abbiamo parziali segnali di ripresa dell'economia che arrivano esattamente dal settore auto, e quindi magari ci si aspettava una chiusura d'anno buona e arriviamo a settembre in questa situazione. Ci dà un'idea? Sì, Federauto rappresenta tutti i brand, quindi anche i brand non solo quelli tedeschi, anche i brand italiani o di francesi, eccetera, di cui fanno parte anche i concessionari Volkswagen Audi, quindi stiamo seguendo assieme a loro le loro vicende, stiamo cercando di supportarli. È un momento di grande preoccupazione, perché le parti lese non sono solo i clienti, che naturalmente devono essere prioritari, ma anche gli stati che sono stati ingannati per queste emissioni che farlocche, diciamo, ma anche i dipendenti onesti del gruppo tedesco, perché più o meno Volkswagen Group nel mondo ha 600.000 dipendenti. Penso che chi ha posto in essere questa truffa, o chi sapeva, sono numeri bassissimi, e quindi la truffa è anche nei confronti della parte sana di questa azienda. Prego. Chiederete i danni alla Volkswagen? Ci avete già pensato? Ma allora, non credo che sia una fattispecie sul tavolo. Io credo che il secondo produttore mondiale, o il primo, nel primo trimestre, era il primo perché aveva superato il gruppo Toyota, che appunto ha 600.000 dipendenti, che dà lavoro nel mondo a milioni di persone, ripeto, milioni di persone, con i fatturati che fa e con la storia che ha alle spalle, credo che affronterà questa crisi eliminando le mele marce, licenziando e tagliando le teste di chi ha posto in essere questa truffa o di chi sapeva, farà la pulizia al suo interno e darà le risposte concrete ai clienti, richiamando questi 11 milioni di veicoli e aggiornandoli in maniera tale che possano rispettare le emissioni. Poi sì, la risposta deve essere anche politica, perché bisogna capire queste vetture come saranno, certo, riomologate, o ci sarà un'omologazione generale. Certo. Insomma, ci sono delle soluzioni che vanno ricercate insieme. Sì, mi sembra di capire comunque che siamo ancora in mezzo al guado. Grazie a Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, per essere stato con noi. Parliamo di Netflix. Arriva in Italia, finalmente abbiamo una data. 22 ottobre, questa la data definitiva per l'arrivo di Netflix in Italia. A servizio di televisione on demand sarà possibile accedere da smart TV, tablet, smartphone, computer e da una serie di console per videogiochi connesse a internet, oltre che da Apple TV e Google Chromecast. Due gli accordi con gli operatori telefonici. Telecom Italia sarà disponibile anche tramite il set-top box TeamVision e i clienti potranno pagare tramite la bolletta Team, e Vodafone, promozioni esclusive che includeranno abbonamenti e un pagamento che potrà avvenire tramite il contratto Vodafone. La piattaforma di streaming offrirà vari tipi di abbonamento: un piano base con una sessione di streaming alla volta e definizione standard a 7,99 euro al mese, un piano standard con due sessioni di streaming contemporanee e alta definizione a 9,99 e un piano premium che consentirà quattro sessioni di streaming alla volta e la visione in ultra HD 4K a 11,99 euro. Tra le serie originali che si vedranno in Italia, Marvel, Daredevil, Sense8, Marco Polo, Narcos e la docuserie Chef's Table. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.